soltanto suggerirgli uno psichiatra ed andare in analisi, perché mi sa che lo trovo, lo sento anzi molto esaurito. Tutto qua. Ciao, gente. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Non è in spiaggia a giocare ai racchettoni, Pierluigi Pardo, ma è al foro. Sì, il Politecnico per i romani è un luogo sacro, no? C'è questa settimana in cui a Roma tutti parlano di top spin, rovescio, bimane, sì, seconde di servizio, si sì, vedi con le racchette, certo? Come è messo, frappeso, insomma, che non ha mai fatto, però questa è la settimana in cui sono tutti pazzi per il tennis, ma, insomma, tutti devo dire, tennisti, tutti devo tennisti. Dire, questo torneo, adesso non voglio fare il campanilista, questo torneo è di una bellezza cosmica, perché si gioca in uno dei, perché è un grande torneo prima di tutto, insomma, mezzo gradino sotto ovviamente agli slam, ma poi dal punto di vista della location, del tipo di luogo nel quale viene giocato, è uno dei tornei storici, è uno dei tornei storici del circuito mondiale, dai Pier, poi non stiamo parlando di grande slam o di altre cose, c'è però... Pietrangeli in mezzo alle statue, sì, un sacco un di suggestioni, esatto. Questo è il calcio italiano di merda, ha detto Benitez. L'ha detto Benitez dopo in un finale di Parma-Napoli che ormai sta assumendo risvolti davvero comici. Dunque Benitez ha detto questo, un ispettore della procura della Federcalcio l'ha sentito e Benitez è stato squalificato per una giornata, immediato ricorso per il Napoli. A me sembra sbagliato tutto sommato origliare, però mi sembra una frase della quale non si capisce il contesto. Poi c'è anche Higuain, 10.000 euro di multa per Higuain per la gazzarra con Mirante. E sai che ha detto Mirante? Ha detto: dopo la partita Gonzalo mi ha mandato un SMS, ci siamo sentiti, ci siamo chiariti, per me al triplice fischio era già finito tutto, non conta nulla quanto è accaduto, è stato solo il nervosismo del momento, dico a Gonzalo che sono disposto a fare metà con lui, dico, per questa multa facciamo 5.000 euro a testa e chiudiamola lì, hai capito? Sì, però questo, scusate, non voglio fare i conti in tasca, però visto che Mirante quest'anno credo abbia preso qualche soldo in meno di Higuain... suggerisco ai Higuain di fare il buon gesto e pagare a lui. Ma ti rendi conto che è tutto comico? Siamo veramente alle comiche, sì. Mi sembra che tutta questa faccenda abbia raggiunto risvolti di elevata comicità, non so come la pensano gli ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde. Intanto stiamo aspettando la Champions League, questa sera c'è l'impresa disperata che tenterà il Bayern di Monaco dimezzato di un Guardiola arrabbiato contro il Barcellona, ma aspettiamo quello che succede domani sera al Bernabeu con grande trepidazione. Chiellini. Il Real credo che abbia anche un po' giocatori diversi dai nostri, quindi magari può sembrare meno cattiva, ma hanno dei fuoriclasse che ti risolvono la partita in un attimo, e anche l'ultima partita che poi hanno pareggiato col Valencia potevano fare 8-10 gol forse, quindi bisognerà cercare di limitare al massimo i loro grandi campioni. Poi c'è un ascoltatore che mi scrive: ai ai ai, la manita per il tuo Toro, però stagione esaltante, il Toro non è mio, è di Cairo, almeno fosse mio. Comunque. Fa ridere, il tuo Toro. Questi che è stato fa molto ridere. Sì. Però sì, io lo posso confermare, tu sei di Piostasco, esattamente. Piostasco. E il Torino è mio. E lo voglio io, e me lo tengo io il Torino. Però il problema è che il Genoa, che ieri ha stravinto questa classica partita da fine stagione, il Genoa, non, anche se arriva in zona UEFA, ai ai ai, altro che a me, a Preziosi non ha una licenza, Preziosi. Direi quasi che maledico chi si permette di dire una cosa del genere. Intanto noi abbiamo ricapitalizzato la società con 26 milioni che saranno completati domani, quindi qualsiasi accostamento al Parma con la situazione del Parma veramente non solo è impensabile, ma nessuno si dovrà permettere di fare. Anzi, noi abbiamo una società che oggi incassa più di quello che spende, per la prima volta sono un anno e mezzo, quindi abbiamo anche un EBITDA positivo, per cui noi per i prossimi anni con questa politica avremo sempre il Genoa in sicurezza. E auguriamoci per il nostro Genoa che sia davvero così. Per il tuo Genoa, Mio Genoa, sì, anche quello è mio. Auguriamoci che sia davvero come dice Preziosi. Ci fermiamo per traffico, ma torniamo subito. 800 24 00 24, numero verde. Torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Und der beste Trainer der Welt zu sein, so das ist gar nicht scheiße. La materia organica è sempre quella evocata da Benitez, ma questo era Guardiola che ieri in conferenza stampa ha detto scheiße. Comincia anche così, peraltro, il pezzo del nostro ospite oggi su Repubblica. Uno ce l'ha al Foro Italico, l'altro ce l'ha a Monaco di Baviera e io sempre qua a tirare la lima. Se permettete, questa storia del migliore allenatore del mondo è una merda, ha detto Guardiola. Ciao Andrea Sorrentino. Ciao a tutti. Ciao. La stagione finisce, sono tutti un po' più nervosi e scappano delle paroline, no? Sì. Capita. Sì, capita soprattutto se sei sotto pressione come Guardiola. Credo che Pierluigi non uscirà da questo buco. Cosa dici? Beh, niente, quello sta. Che dice Torri? No, niente, vai pure. Argomenta. Parti tu. No, ti sento sempre tra molti balli. Così, ecco, tutto qua. Vai, parla tu. Ragazzi, parla tu, mi viene. No, allora vogliamo capire, ha una chance il Bayern di Monaco dimezzato e furibondo? No, non ha una chance. Io penso che il Barcellona vincerà anche stasera. Ho sentito la conferenza stampa di Guardiola, nella quale dal punto di vista tattico lui parla di una partita che deve essere difensiva, che non bisogna attaccare subito. In qualche modo la sensazione che mi ha comunicato è di voler quasi limitare la tragedia, no? I danni, quindi questa è la percezione che ho avuto ascoltandolo. Poi bisogna capire, ma secondo me esattamente come era successo 2 anni fa, al contrario, con il dominio del Bayern, o 3 anni fa probabilmente, col dominio del Bayern andata e ritorno, qui siamo nella stessa situazione. Cioè sono grandissime squadre che però arrivano a questi appuntamenti, se c'è una distanza, quella distanza è enorme. La si è vista all'andata ben prima del gol del vantaggio che poi ha sbloccato la partita, e credo che stasera sarà la stessa cosa. Sì, quindi Sorrentino è lì per raccontare una sorta di funerale sportivo della squadra più ricca del mondo, o quasi. Guarda, in questo momento il Bayern è la squadra più ricca del mondo, o comunque senz'altro la più ricca di Germania. In Germania non ha rivali, però sono 2 anni che si scontra su dei muri spagnoli. Lo scorso anno il Real Madrid, quest'anno il Barcellona. Non sono d'accordissimo sull'analisi della partita d'andata, perché secondo me all'andata Guardiola riuscì in un piccolo capolavoro tattico e strategico, almeno fino a 13 minuti dalla fine, poi fu tutto mandato all'aria da Messi. Però Guardiola all'andata giocò una partita di enorme intelligenza, anche cambiando in corsa la difesa 3 dalla difesa 4, concesse al Barcellona quello che devi concedere al Barcellona al campo, cioè un paio, 3 occasioni al massimo, però la sua partita l'aveva quasi portata a casa. Poi è arrivato Messi e con il Messi di adesso soprattutto c'è ben poco da fare, ci sono pochissime alchimie tattiche. Non so chi diceva oggi che il Barcellona fosse una squadra anche quasi normale se non avesse Messi, è quello che fa. Beh, ma non solo Messi, Andrea, perché secondo me è l'attacco, nettamente l'attacco più forte del mondo, sono pazzeschi. Tutto il tridente, ma di che stiamo parlando? E poi bisogna anche dire, bisogna poi anche dire che insomma il Bayern sicuramente è arrivato a questo appuntamento fondamentale con delle assenze che pesano e che svalutano molto. Già secondo me in assoluto, se contiamo le individualità, il Bayern è un filo sotto, anche forse 2 fili sotto al Barcellona, però ha una forza del collettivo davvero da sottolineare, una grandissima compattezza. però poi se non arrivi con i giocatori migliori in condizione, in grado di scendere in campo a questi appuntamenti, insomma, poi la differenza si vede, si è vista l'andata, e sono d'accordo, il capolavoro tattico che era stato, perché ovviamente averli imbrigliati per 77 minuti è stato già un'impresa, però poi prendono 3 in 13, no? È tanta roba, 3 in 13 è tanta roba. Forse potevano in quel caso limitare i danni, magari evitando quel gol, l'ultimo gol al 94esimo. Chiaro che 2-0, 3-0, qualcosa cambia. Sì, qualcosa cambia. E lì c'è la... Cambia poco, cambia. Ti chiedono tutti il sorrettino qui. Comunque. Ti chiedono tutti il sento. No, a parte le battute, la differenza la fa chiaramente 2-0, 3-0. Sono sicuramente due situazioni completamente diverse, però io credo che al di là di tutto, se anche fosse finita 1-0, comunque... La sensazione di superiorità che ha dato il Barcellona nella gara d'andata, che in qualche modo già ci aspettavamo prima che giocasse, è enorme. Quindi mi verrebbe da dire che se anche fosse venuta 1-0 non avrei avuto grandi dubbi su stasera. Mi sembra che la differenza in questo momento sia tanta. Senti Pier, c'è Nicolas da Parma che ha finito i gigabyte su internet e vuole sapere cosa sta facendo la pennetta. Dopo glielo dici. Guarda, la pennetta era sotto 5-3. Io sono in un posto, nel posto più caldo del Foro Italico, e con un centinaio di persone vicino che saluto, ringrazio, sono molto, molto carine. Ecco, sì, poi bisogna. Poi c'è sempre qualche problema, perché questi telefonini adesso li fanno con... Con le due telecamere fronte e retro, per cui dice bello fare i selfie, ma mediamente quando uno arriva per il selfie sta sempre girato dall'altra parte, quindi sono sempre quei 3-4 secondi e poi fa oddio no mi sono inceppato, capito? Quindi la pennetta non lo so, qui adesso c'è Jovanovski e Garcia e poi c'è Tomic e Trovicchi. Comunque vediamo di provvedere per Nicolas da Parma che ha finito i gigabyte su internet. Senti Andrea Sorrentino, a proposito della parola con cui hai iniziato oggi il tuo pezzo, quella pronunciata da Guardiola, è stata quella stessa pronunciata da Benitez. Avrai letto il finale comico di questa finale di questo dopopartita di Parma-Napoli. No, a me sembra la cosa più agghiacciante non è quella di Benitez, sì. È il clamoroso dietro fronte di Donadoni, ecco, quella, la parata delle dichiarazioni di Donadoni sono è quella che regala un senso di inquietudine a tutta questa storia. Donadoni la domenica sera accusa tutti, il lunedì ritratta ogni cosa, e quindi io non vorrei usare parole eccessive come omertà, però è una storia veramente strana, antipatica, e che a questo punto chiama in causa purtroppo anche Donadoni. Perché Donadoni fa questa inversione a U il giorno dopo? Ragazzi, non sono belle cose, non sono belle cose. Guarda, quante volte ne abbiamo parlato anche in questa vostra trasmissione, non se ne parla. Il girone di ritorno della Serie A è una cosa vergognosa al 50-60%, lo è anche quest'anno. Domenica ci sono state partite schifose, ragazzi, schifose, non vergognose, ci sono partite schifose, schifose, nelle quali le persone che seguono il calcio di Serie A vengono prese in giro. Tutto qua. Poi i loro signori vengono ai microfoni a dire le loro frasi edificanti, le loro frasi standard, e tutto passa in cavalleria e domenica prossima si ricomincia. Ma moltissime partite in Serie A di questo ultimo scorcio di campionato fanno schifo. Posso dire una cosa? Posso? Dimmi. Io non sono molto d'accordo, nel senso, ci sono ancora delle partite così. Ma secondo me dopo l'ultima tranche di calcio scommesse è cambiato tutto. Uh-huh. E oggi sono molto più rare quelle partite alle quali fa riferimento Andrea, ce ne sono ancora, ma abbiamo visto il Chievo andare in casa della Lazio a pareggiare, andare in casa dell'Inter a pareggiare, abbiamo visto l'Empoli. Ma poi lo stesso Parma mi sembra un buon segnale, no? Mi sembra un buon segnale il comportamento del Parma. Sono invece d'accordo sulla questione Donadoni, nel senso che Donadoni veramente io ho grande stima, grande rispetto, quindi sarà interessante secondo me ascoltarlo e arrivare a una sintesi definitiva. Però insomma Donadoni, allora, o l'altra sera era in pura adrenalina post partita, per cui ha ingigantito delle cose perché era comprensibilmente arrabbiato per certi insulti, e va bene, però allora lo deve dire. Allora deve dire: scusate, io sono stato insultato l'altra sera, è partita la brocca e basta, fine. O se no invece è il contrario, o se no quelle cose allora le ha sentite e la mattina dopo ha deciso improvvisamente di dire, non dico il contrario, ma insomma di fare improvvisamente il pompiere. Io difficile da capire, ma vabbè, una cosa che non ho capito in tutto questo, che fa tutta la differenza del mondo, è se il riferimento era a una serie di insulti poco eleganti da campo, che però sono chiaramente accettabili, no? Nel senso che comunque, o meglio, sono inaccettabili sul piano etico. Sì, ma non io non ci vedo niente da inchiesta, posso dire. Ma poveraccio, sei fallito. Ma sì, ma non ci vedo niente da inchiesta in questa storia. Dalle dichiarazioni dei donatori dell'altra sera sembrava che il discorso fosse un po' diverso, o forse ho capito male io. Sembrava che dicesse, oh, non volete scansare che siete già in B? È già diverso il concetto, perché io ti sto chiedendo per favore, o a un certo punto in maniera arrabbiata, sto dicendo fammi vincere questa partita, tanto a te non ti cambia niente, no? Poi c'è anche Mirante che fa metà della multa con Higuain, e questo aggiunge ulteriore comicità. Però ripeto, magari è così, e allora a quel punto il Napoli è parte lesa, perché se è così il Napoli ha avuto un danno d'immagine enorme. Se non è così, allora le due versioni non combaciano per niente. Un'ultima cosa, Sorrentino, prima di lasciarlo andare, non credo che ci vada adesso all'Allianz Arena. Dai, tra un po'. Adesso leggiamo un libro, ci prepariamo e poi andiamo. Tra poco cominciamo noi dopo la borsa. Ma non hai mai letto un libro in vita tua, dai, che libro devi leggere? Consiglio a tutti i cinefili e non del mondo, A pranzo con Orson, un libro leggendario su Orson Welles e delle sue conversazioni a Hollywood. Ma va bene, andiamo avanti, dimmi pure. Consiglio a tutti i calciofili, anche i non napoletani, io ad esempio non sono napoletano, ma un libro meraviglioso di De Giovanni, il quale sto in pista, l'ho finito l'altro giorno, un libro bellissimo, veramente il Di Corbi italiano, il Di Corbi napoletano, un libro che racconta il resto della settimana, si chiama, racconta la follia, la passione del tifo in un bar di Napoli con un professore che sta lì a fare un'inchiesta scientifica per scoprire gli effetti del tifo sulla gente, e rivive alcune pagine della storia del Napoli. Ma sono convinto che è un libro che piacerà moltissimo anche a chi non è tifoso del Napoli, non c'entra veramente niente, racconta la bellezza e la follia del calcio. Poi sicuramente, insomma, chi conosce Napoli troverà dei luoghi o troverà delle situazioni che gli daranno ancora più valore, più familiare. Al di là dei libri volevo sapere da Sorrentino quali sensazioni ha sulla Juventus. Secondo me è durissima, per la Juve sarà durissima, è molto difficile che Real non segni un gol nel suo stadio, ci sarà un'atmosfera piuttosto effervescente, ci sarà una squadra ferita che è al suo ultimo recital di quest'anno. Quindi attenzione, perché tra l'altro la Juventus all'andata ha giocato una partita splendida, praticamente perfetta dal punto di vista tattico, non so se riuscirà a ripeterla al Bernabeu, dove è tutto molto diverso dallo stadio. Bene, grazie Andrea, noi di questi argomenti torneremo a parlare dopo la borsa. Ciao Andrea Sorrentino, per Luigi Pardo sta lì. Intanto, per chi ha finito i gigabyte sul telefonino, la pennetta ha perso 6-4 primo set contro la Svitolina, ce lo dice Dante da Busto Arsizio, a dopo. Eccezionale, come al solito, il più grande fuori classe del mondo. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Andiamo con gli ascoltatori. 800 24 00 24. Tra poco invece apriremo la strada verso Madrid, da qua fino a come minimo domani notte, poi riparleremo ovviamente giovedì, insomma una lunghissima strada. Prisco Caserta, buongiorno. Buongiorno, dica. Ascolta, sentite bene, perché io sono solo al telefono, sì, grazie. Sì. Allora senta, il concetto che volevo esprimere, cercando di essere molto sintetico, infatti ho appena sentito qualche minuto fa da voi che avete ben focalizzato la situazione dell'altra sera, cioè qui o Donadoni, Mirante e Palladino hanno avuto le traveggole, oppure c'è stato qualche cosa il giorno dopo tipo avvertimento, capitemi bene, trattandosi di una situazione che riguarda il Napoli. perché ci sono tutti gli estremi, se abbiamo capito bene, dalle affermazioni riportate alla stampa. Io per la cronaca ero in Francia, quindi non è che ho visto le affermazioni dirette a TV, cioè che durante l'evento, non dopo l'evento, della parapiglia finale, ci sono state delle richieste di essere più tranquilli, più docili, tanto eccetera. Questo mi sembra a tutti gli effetti un tentativo di illecito sportivo. Questa parola non la sto sentendo da nessuno. Illecito sportivo a tutti gli effetti, per le quali in passato società di serie A, serie B, serie C, compresa la mia casertana dell'epoca, sono state retrocesse. Vabbè, abbiamo che Prisco, però mi sembra una ricostruzione molto molto dura questa. Non abbiamo tutte ste prove, no? No, non abbiamo nessuna prova, e tra l'altro insomma, quel passaggio lì sul fatto che trattandosi del Napoli, esatto, quella io non l'ho capito. Non mi è piaciuto, nel senso che poi sappiamo benissimo ovviamente che Napoli ha i suoi problemi, ma non è la sola città che ha problemi, e diciamo comportamenti di tipo delinquenziale possono esserci relativamente a qualsiasi città, sì, ma poi sono mondo, quindi, queste mi sembrano abbastanza fantasie, mi sembrano pure fantasie, Pier, dai. Ma certo, soprattutto mancano le prove, la sostanza rimane, cioè quello che diciamo tre minuti fa con Sorrentino, cioè, è evidente che se qui sono state dette delle cose l'altra sera che poi sono state smentite nei fatti, nei modi e nella sostanza la mattina dopo. Oddio, magari anche De Laurentiis la mattina dopo, se avesse parlato dell'arbitraggio di Napoli-Snipro, forse non avrebbe attaccato con quella ferocia Platini, perché siamo esseri umani, e quindi ci può essere anche una reazione diversa a seconda che uno parli a caldo oppure a freddo la mattina dopo. Però, sto benedetto silenzio stampa, cioè se qualcuno del Napoli avesse interrotto sto silenzio stampa ormai eterno e avesse spiegato qualche cosa, magari il caso si sarebbe sgonfiato prima. Può essere, ma sì e no, nel senso che poi il Napoli comunque ha parlato sotto forma di tweet, di comunicato, e onestamente in questa situazione qui il Napoli, ribadisco, è quello che deve parlare meno di tutti, nel senso che qui è stata un'accusa da parte di Donadoni. Quello che oggi a Napoli dicono è allora però bisogna che questa accusa sia più precisa, faccia i nomi Donadoni, è tutto qua, oppure dica che ha capito male, e poi alla fine ragazzi è finita così, è finita con Donadoni la mattina dopo, che dice ma no, non c'è motivo di aprire un'inchiesta, facendo capire che di fatto è una cosa di poco conto. Allora però se è una cosa di poco conto, perché ha avuto quei toni la sera prima? Il punto interrogativo rimane aperto, poi sul resto, sui comportamenti delinquenziali mancano completamente le prove, e ripeto, qualsiasi città del mondo eviterei di tornare su questo discorso. Hanno fregato la macchina sotto casa a Milano, benissimo, ma hanno fregato la macchina sotto casa, quindi, anche in un quartiere che è ruccio, insomma, Giovanni, provincia di Salerno, dica. Salve a tutti, come deve essere il garbo, soprattutto davvero encomiabili. Volevo parlare, prima di iniziare, volevo dire se ci vuoi mettere una tassa, Carlo, sul per avere, diciamo, Leo Turrini 5 minuti al giorno, perché è di un godificio unico, perché sono un suo fan assoluto, veramente. Ma lo sentiamo spesso. Siamo tutti i suoi fan. Sai cosa ha detto? Oggi c'è anche una bella frase di Alonso, L'anno scorso la Ferrari era un minuto dalle Mercedes, ora è a 43 secondi, due punti, non è cambiato niente, mica male. Volevo dire inoltre che sono cambiati 17 secondi, no? Sì, 17 secondi e qualche podio. Volevo aggiungere che la democrazia in Italia è fallita, perché parlano davvero tutti. Ho sentito ieri sera la trasmissione del buon Piero, il signor Cesari, che addirittura diceva che De Laurentiis ha fatto bene nell'accusare Platini, che è una cosa di un assurdo pazzesco, perché Cesari, se non sbaglio, è quello che diceva il record assoluto per il gol annullato all'Udinese con la Juve, sono tifoso Juventino. Cesarino. Come si chiama? Faccio fatica a chiamarlo. Vabbè. È il dottore Maviola, uno che non ha visto un gol di 4 metri dentro. Se per commentare la Moviola se dovesse non aver fatto neanche un errore in carriera, la Moviola non può fare nessuno, cioè siamo esseri umani. Cesare è il primo che riconosce, adesso poi mi dispiace, non voglio fare l'avvocato difensore, Cesare è il primo che riconosce, spesso ci abbiamo anche scherzato sopra. Sì, è buono, ragazzi. Capito? Ci abbiamo scherzato sopra mille volte sugli errori della sua carriera, che ci sono stati pure. Insomma, credo sia stato un arbitro. Quindi, ma cosa ha questo... detto che ha fatto no, bene? Ha detto quello che in qualche modo aveva detto noi un po' l'altro giorno, se no è forzandolo. Io ho semplicemente detto che da un punto di vista, diciamo, di folklore e di passione per il calcio, un presidente che a caldo, appunto, ancora una volta torniamo sull'elemento del tempo, di quando uno sfogo viene, ha questo tipo di sfogo, da un certo punto di vista lo posso capire, lo considero un elemento quasi folcloristico. Lui ha detto invece, è andato oltre, ha detto che bisogna che in qualche modo gli ha dato ragione. Gli ha dato ragione che bisogna, quando ci sono dei torti arbitrali così clamorosi, in pratica bisogna farsi sentire, non perché sia secondo lui la malafede, ma perché comunque è importante mettere magari, i piedi sulle i. Sì, magari farsi sentire, secondo me ha un po' forzato i toni De Laurentiis, ma su questo io e te ci eravamo già trovati d'accordo sul punto. Rotto Madrid, andiamo. Io credo che quando arrivi in semifinale di Champions, anche se l'hai vinta l'anno prima, però è un'occasione talmente bella che la fama viene da sola. Noi siamo una squadra che sicuramente vuol dimostrare di meritare di essere a questi livelli e stiamo dando il 110% di noi stessi per arrivare a questa finale. Sono che abbiamo, siamo vicino a arrivare in finale. Siamo una squadra forte perché siamo una squadra che ha dimostrato che può andare avanti. Giocare contro il Madrid in casa di loro è sempre difficile, però noi abbiamo una cosa in testa, che è andare avanti, e penso che dobbiamo giocare con il cuore. Credo che abbia anche un po' giocatori diversi dai nostri, quindi magari può sembrare meno cattiva, ma hanno dei fuoriclasse che ti risolvono la partita in un attimo, e anche l'ultima partita che poi hanno pareggiato col Valencia potevano fare 8-10 gol forse, quindi bisognerà cercare di limitare al massimo i loro grandi campioni. Olè! Ciao Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Ultime da Madrid, poi ne parliamo un calmo dopo il traffico. Ultimissime. Due notizie di servizio. Siamo seduti praticamente dentro il Bernabeu. Sì. E se vuoi posso convocare anche un Marco Foroni, per esempio. Marco, come no? Allora fai così, convoca Marco allora. Foroni, io mando il traffico, così poi ne parliamo. Va bene, è convocato. Okay. Convocato. Okay. Tutti convocati. Convocati. Allora Pierluigi, conosci Foroni? Marco, vediamo se conosco con... abbastanza bene. Guarda, gli dico Bacara. Bacara, come va? Bene, dove sei? Dove sei? A una mesa al Bernabeu, dietro la porta di sinistra, diciamo così, guardando delle riprese televisive, di fronte a Filippo Ricci con gli altri miei colleghi. Togliamo la poesia, siete al ristorante dentro al Bernabeu. Caffè Real, noi ci piace Caffè chiamarlo Real. Così, Caffè roba, Real Bernabeu, roba seria. Ecco, Parda ha già capito tutto. Siamo al sector 220, Pares e Distempares, i seggiolini sotto di fianco a noi. Sì. Una cosa curiosa è che voi prima avevate convocato Filippo Ricci, sì. Che è seduto dove abitualmente sta Pierluigi Pardo nel suo ufficio, perché di fianco a lui... Di fianco a Filippo adesso è seduto Mino Taberi, che di solito nell'ufficio di Sport Media, anzi di Premium Sport, è seduto di fianco a Pierluigi Pardo. Se volete lo convochiamo anche lui. Ma convochiamo tutti. Perché gli devo fare una gag. Devi fare una gag. Farà una gag, ti preannuncio un teaser di Pardo, poi farà capello. Dice, vabbè, non so, vediamo. Devo fare un annuncio. Vabbè, non dire. vediamo. C'è Taberi? Aspetta, te lo passo. Lo grazie. Così, quindi questi erano tutti i contenuti del mio intervento. No, aspetta. Questa gag e poi Foroni. Vediamo se arriva. Pronto? Mino? Eccoci qua. Ciao, ragazzi. Vuoi comprare casa a Pistoia? Ciao, Sergio, come stai? Ciao, Sergio. Vai all'immobiliare tu, ho saputo, no? Dai, su, su. Quello buono è Iaquinta, noi abbiamo una serie di... Ma come Iaquinta? Quello buono è Iaquinta. Ma come Iaquinta, mister? Quello buono è di Natale. È grosso. Ma che grosso? Ma di Natale fai gol. Cioè, Iaquinta è grosso, ma di Natale fai gol. È grosso. Ma che vuol dire che è grosso? Ma ci deve basta, che basta, se non è finita la gag, è finita. I tempi comici sono importantissimi. Senti, allora io, appunto voglio un parere da Mino Taveri, uno da Marco Foroni e uno da Filippo Maria Ricci su quali sensazioni hanno sulla pelle oggi. Meno. Allora, sulla pelle abbiamo intanto tantissimo caldo perché qua si muove dal caldo, e vabbè, ma questa è solo una sensazione meteorologica. La sensazione nostra da italiani, diciamo che è positiva, non può essere altrimenti, anche perché stamattina abbiamo assistito all'allenamento del Real Madrid. Si sono allenati anche Benzema e Kroos, ma non stanno benissimo. Il Real comunque è un po' preoccupato perché a centrocampo non ha l'incontrista che serve ad Ancelotti. Ramos probabilmente tornerà in difesa. Allora, se mi chiedi le sensazioni, io ce l'ho positive. È vero che noi stiamo pranzando qui con vista sullo stadio e già vederlo vuoto questo stadio fa paura. Non posso pensare stasera con 80.000 persone. Da Mediaset a Premium Sport, direttamente in Gazzetta dello Sport, a Filippo Ricci. Poi torneremo ancora a Premium Sport, Marco Foroni. Filippo Ricci per voi. Filippo Ricci, eccolo qua. Senti, sensazione che da parte tua ho letto Ancelotti, mi sembra abbastanza tranquillo dalle dichiarazioni che leggo. Serve tranquillità. Ha attaccato l'agente di Bale in maniera sopraffina, tanto in spagnolo come in inglese. Giustamente, ha detto: non è mai venuto qua, non sa di cosa parla. Ha perso un'occasione per stare zitto. È quello che ha detto che al povero Gareth non gli passano la palla, che cosa che non faceva neanche il fratello maggiore per il fratellino da piccoli. E detto questo, no, questo va visto tranquillo. C'è questo grande dubbio, Cicciarito Benzema di partenza. Benzema è convocato, però bisogna vedere se comincia col messicano o col francese. Sì, credo che il portoghese preferisca il francese. Sì, però questo non gioca da un mese, Karim, quindi bisogna vedere, insomma è una partita complicata, per cui questo è il grande dubbio. Ramos tornerà in difesa, direi con Pepe, quindi con Varane in panchina, occhio, e poi gioca la squadra del presidente, cioè tutti quelli buoni, tutti quelli buoni in campo, è così che si fa, Carletto lo sa benissimo. Esatto, è così che si fa, però per la Juve, per me, questa continua ad essere una grande occasione. Sì. Poi è chiaro che siamo in semifinale, siamo contro i campioni d'Europa e del mondo, però questa è una grande occasione per la Juventus, perché proprio perché siamo in semifinale, i limiti che erano evidenti già ad agosto e che Real Madrid, nonostante abbia due soldi da spendere, non è riuscito a correggere, i limiti tattici sono evidenti per me. Alla Juve approfittarne. Ha detto benissimo Cordoba, ad esempio, no? Cioè, è chiaro che è sempre difficile, è chiaro che il Bernabeu si può far male, Cristiano Ronaldo si può accendere, però insomma, se uno dovesse pensare a delle condizioni per potersela giocare, sono queste. Cioè, arrivi contro la squadra che ha una pressione addosso mostruosa, che ha qualche problema oggettivo, con un risultato dell'andata incoraggiante e con una grande autostima e la festa scudetto che va avanti ormai da due mesi di fatto. Sì. Sono le condizioni ideali, poi se basterà questo è difficile dirlo. Senti Filippo, chiedi un parere anche a Foroni, così poi chiudiamo il collegamento, dato gente a tutti i giorni. Ti passo Foroni che voleva anche un parere da parte sua. Spero sia scappato. Voglio un parere sulla partita. Aspetta, sta mandando un SMS. Te lo passo. Grazie. No, una mail, perché ho avuto un avviso di sinistro il 24 ottobre a Roma, ma non vado a Roma da un anno, quindi è difficile. Ma non ti ho detto veicolo è stato pardo. È dato la ma mia è quel tale. Weekend che ti ho preso la macchina. Ti avevo mandato un messaggio su WhatsApp, mi sa che ti è inquietante, Marco. Di sinistro a Roma. Sì. La tua sensazione, su questa partita, anche tu a pelle la vedi come la grande occasione, la senti come la grande occasione? Sì, assolutamente sì, perché insomma ho ancora negli occhi la partita d'andata, dove la Juventus ha dimostrato di potersela giocare alla pari con il Real Madrid, quindi secondo me se te la giochi a pari con il Real Madrid a Torino, te la giochi a pari con il Real Madrid anche al Bernabeu. Le sensazioni insomma sono un po' miste però, perché è proprio il campo che risolverà questi dubbi, nel senso che per me non c'è un favorito chiaro. Il Real Madrid certamente come talento, come cifra tecnica, ha qualche cosa in più rispetto alla Juventus. Penso anche però che la Juve ha degli uomini chiave, nei ruoli chiave, dei fuoriclasse assoluti, e quindi una squadra con equilibrio, con un portiere eccezionale, una difesa solida, degli interpreti come Pirlo e Tevez, se la può giocare e può vincere in ogni condizione con il Real Madrid, che è una squadra dalla grandissima qualità, dalle mille risorse, e vista anche, ne ho seguito la partita dell'ultimo turno di campionato contro il Valencia, stava sotto 2-0 all'intervallo dopo aver preso tre pali e sbagliato un calcio di rigore. Ecco, quindi se quei pali sono gol, ovviamente il risultato è completamente diverso. Però è una squadra che può che concede, può essere messa in difficoltà, certo. Dipende molto come inizia la partita. Sicuro. Secondo me. Anche dipende dal primo gol. È interessante. Segna la Juve, cambia completamente. Segna il Real, vengono tutti trascinati. Secondo me sono tutte variabili che incideranno molto sul risultato finale. E non a caso si dice la Champions è la competizione dei dettagli, no? Sì, sì. Spesso l'ha ricordato Ancelotti stesso quando allenava il Milan. Tu devi fare tutto il meglio possibile, ma insomma, secondo me la Juve ha una grande opportunità. Dopodiché gioco contro una squadra che è campione in carica e che ha insomma dei fuoriclasse di livello assoluto, e quindi anche dovesse perdere, voglio dire, secondo me è importante per il calcio italiano, per la Juventus, per il lavoro fatto in questi anni, sì, di arrivare alla semifinale. Guarda, abbiamo come mai poi Carlo di giocarsela con il Real. Poi, come abbiamo detto molte volte, io e te, è già un grande risultato sportivo questa semifinale per il calcio italiano. Questo assolutamente, ma poi i picchi, ha ragione Marco, cioè i picchi di talento del Real Madrid probabilmente sono superiori, quindi diciamo nelle eccellenze il Real Madrid è superiore, però è superiore anche nelle debolezze. Cioè secondo me la Juve ha un equilibrio che era dimostrato all'andata che il Real Madrid non ha. Banalmente, io oggi mi fido più di Buffon che di Casillas. Anche ieri, non solo oggi. Un'altra cosa che vorrei dire, anche come arrivano, secondo me qui diciamo il Real Madrid ha dei fuoriclasse anche da questo punto di vista della pressione mediatica, di reggere tutte queste grandi aspettative. Però il fatto che si arrivi con uno dei temi della vigilia qui a Madrid è i fuischi del Bernabeu per l'eroe dei campioni del mondo della Spagna, Casillas, le parole del procuratore, cioè sono tutte cose che distraggono in qualche modo, no, l'attenzione. D'accordissimo. La Juventus non ha avuto nessuno di questi problemi alla vigilia, tutti uniti, tutti compatti, tutti remare nella stessa direzione. D'accordissimo, ecco. Ha una pressione enorme, il Real Madrid ha una pressione enorme, io questo continuo a tenerlo ben presente. Grazie a tutti, grazie a Marco Foroni, a Filippo Maria Ricci, a Mino Taveri e anche a te, Pierluigi, ci sentiamo domani. Vamos a ganar, ciao. Vamos a ganar, vamos a ganar. GR. Finisce qua, senza recupero il primo tempo. Gran spettacolo. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni alle 9 su Radio 24 con le provocazioni dei faccia a faccia, le inchieste, le sfide della gente e ancora le novità in rosa di Sara Tardelli, i graffi di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia di Marina Milone. Ogni giorno andiamo a caccia di verità con il fact checking, le parole alla prova dei fatti. Mix 24 di Giovanni Minoli, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 su Radio 24. Arieccice. Tutti convocati. Stavo guardando che l'Argentina lascerà a casa per la Coppa America Icardi e Dybala, che sta per essere annunciato dalla Juventus, avverrà domani o dopo, credo giovedì potrebbe essere annunciato Dybala alla Juventus per 32 milioni. Ma questo perché uno dice, ma come lascia a casa Icardi, fa 20 gol in Serie A, lascia a casa la stella emergente Dybala? Poi a vedere quelli che ci sono, si chiamano Higuain, Messi, Agüero, Tevez, e allora capisci perché noi siamo lì ad arrabattarci. Questo mi fa venire leggeri brividi, siamo lì ad arrabattarci con i bravissimi Zaza e Belardi e compagnia cantante, insomma, con questi. Argentina lascia a casa Icardi e Dybala, ma dateli a noi. Ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde. Leonardo, provincia di Ragusa, buongiorno. Sì, buongiorno, provincia di Trapani, Ah, me l'ha scritto Ragusa, comunque sempre meravigliosa Sicilia si tratta. Sì, esattamente. No, io lo telefono perché volevo giocare un attimo, intanto grazie per la convocazione, un attimo a fare l'allenatore della Juventus per domani sera, se possibile, fare questo gioco. Volendo fare in modo che giocasse Pogba, ma non per Sturaro, ma per Morata, come la vedete? Cioè con il suo Tevez davanti e poi due o tre quartisti. Non ho sentito, Leonardo, mi può ripetere per favore? Non ho sentito bene. Chi farebbe giocare? Ma non lo togliendo Sturaro, ma togliendo Morata all'inizio. Ah. No, io credo che sarebbe un segnale un po' pericoloso per la Juventus, per il Real Madrid, eccetera. Secondo me è giusto che Allegri vada con il suo schieramento, quello in cui crede di più. Giocando così si darebbe un segnale di paura che la Juventus non deve e non vuole dare. Lo dicevo ieri, sono d'accordo sul fatto che Pogba, che è appena rientrato, venga schierato dall'inizio, perché è meglio, perché dopo ha tempo di riscaldarsi, poi eventualmente lo si fa giocare il tempo che regge e poi lo si cambia, mentre inserirlo a gare in corso sarebbe più un problema, secondo me, e credo che andrà in quella direzione. Quindi la formazione della Juventus mi sembra piuttosto scritta, non vedo grandi invenzioni o innovazioni. Ma a proposito degli allenatori di questa partita, ha parlato anche Roberto Mancini. Non credo che sarà un campo facile, però la Juve parte con un vantaggio che dovrebbe sfruttare, ecco. Poi la partita credo sia una partita molto dura. Davide Cosenza, buongiorno. Salve, volevo fare una considerazione a proposito delle due semifinali, una sorta di pronostico più che altro. Per quanto riguarda Real Madrid e Juve, sì, la vedo abbastanza aperta, anche se comunque si sa, con l'individualità del Real lì, ecco, bisogna scherzare poco, soprattutto in fase difensiva. Sì, certo. Per quanto riguarda l'altra partita, credo sia stata, non dico falsata, comunque compromessa dalle assenze del Bayern Monaco, più che altro. Perché comunque con una formazione ideale non penso che una squadra così compatta, così coesa, possa andare a Barcellona a prendere tre gol. Però non ce l'abbiamo, Davide. È chiaro che le assenze di Robben e Ribéry fanno tutta la differenza del mondo, però è una squadra talmente profonda quella di Guardiola che può o dovrebbe poter sopperire anche a questo. È chiaro che sono due giocatori che non hanno un sostituto né nel Bayern Monaco né in alcun'altra squadra, però quella partita, quella sfida, ho l'impressione che sia già compromessa. Insomma, prima dicevamo, ci diceva Andrea Sorrentino, che l'impressione è quella di un Guardiola che voglia evitare la brutta figura, voglia evitare di perdere, quindi paradossalmente cercherà di portare a casa non una qualificazione, mi sembra impossibile, ma un risultato onorevole, diciamo così, che per il Bayern Monaco, squadra più ricca del mondo e più potente che c'è, non è comunque una soluzione da incorniciare. Sempre sulla Juventus e sulla partita di domani invece c'è anche una opinione di Cordoba. È un Real Madrid non perfetto in questo momento, sì, magari a metà stagione era un Real Madrid bello quadrato, adesso un Real Madrid non perfetto, ha delle lacune, ha delle situazioni che sicuramente la Juventus, facendo una partita come ha fatto in casa, può fare la differenza. Perché mi scrive: la bravura dei giocatori di calcio è inversamente proporzionale al benessere della nazione, faresti cambio Italia con Argentina. Mi sembra un calcolo matematico un po' troppo semplicistico. Diciamo che l'Argentina ha in questo momento una grande produzione di giocatori offensivi, perché non è vero che abbia una grande produzione di giocatori tout court, perché a livello di difesa sono anni che l'Argentina non propone e non produce grandi talenti. L'ultimo è stato Samuel, ma ormai non più convocabile. Devo dire che la linea difensiva che l'Argentina presentava e proponeva ai mondiali non era certamente di prima fascia. Laura, buongiorno da Roma. Buongiorno. Dica. Sentivo prima il signor Pardo, ma in genere un certo tipo di comunicazione. E trovo fantastico che penso fra domani e dopodomani il processo verrà fatto a Mirante o al Parma. Sento dire che il Parma deve dare delle spiegazioni. Purtroppo per quelli che intendono la professione come il signor Pardo, ci sono le immagini televisive incontrovertibili. E io non credo che Mirante e quelli del Parma siano completamente usciti di senno. No, però Laura, però converrà sul fatto che la retromarcia clamorosa e repentina di Donadoni meriterebbe una spiegazione. Ma perché? O dici, in questo concordo con Pierluigi, o dici: in quel momento ero davvero alterato, avevo l'adrenalina e la rabbia che mi uscivano da tutti i pori, ho detto quelle cose, la realtà è diversa, Oppure, oppure che cosa? Oppure perché cambiare versioni in una maniera così, così improvvisa? Non sto accusando nessuno, sto semplicemente dicendo che l'atteggiamento di Donadoni, ma anche di Mirante, mi suonano strani se non spiegati. Posso dirlo? Possiamo dirlo questo, no? O no? Laura? Pronto? Mi sente? Sì. Invece il signor Santa Croce, che stamattina ho sentito dire per radio che sono stati insultati tutto il tempo dicendo che erano dei falliti, erano retrocessi e non andavano da nessuna parte, quello non fa fede, vero? No, ma fa fede. Dalla come? Parte dei più potenti. Schieratevi sempre dalla parte. Ma non è questione di schierarci dalla parte dei più potenti. Allora Laura, non è questione di schierarsi dalla parte dei più potenti. A me non me ne può importare di meno né del Napoli né del Parma. Il Parma sta facendo un eccellente finale di stagione. Concordo sul fatto che addirittura questo finale di stagione in cui il Parma ha tolto punti alla Roma, ha vinto con la Juventus, ha tolto punti all'Inter, ha tolto punti al Napoli, punti pesantissimi. Quelli del Napoli è ora che la finiscano di cercarsi un miliardo di alibi, perché sono al momento cruciale della stagione e sarà bene provare ad eliminare il Nipro, che non è il Real Madrid, e ad andare in finale di Europa League. Detto questo, l'atteggiamento del Parma, che comunque ha tolto punti a tutti quanti, a tutte queste squadre e ad altre ancora, mi sembra un segnale invece di salute morale del nostro calcio. So che questo è un parolone, però mi sembra un bel segnale, mi sembra una bella cosa, no? Compreso il fatto che il Parma ci tenga talmente tanto a portarsi a casa quel punticino. Se poi vogliamo fare della dietrologia, facciamola pure. Ci tenga talmente tanto a portarsi a casa quel punticino da perdere normalmente tempo nel finale. Non si dovrebbe fare, si fa quando si è interessati ad un risultato. Quindi questo è ciò che penso. Invece, un'altra parentesi. A proposito di Lazio-Inter di domenica sera, c'è stato Hernanes che si è quasi inginocchiato chiedendo scusa ai tifosi della Lazio per un'esultanza. Ma perché? A tutti i tifosi laziali volevo chiedervi scusa, perché se io sapessi prima la mia capriola sarebbe stata interpretata come una mancanza di rispetto nel vostro confronto, non avrei mai fatta, perché non era quella la mia intenzione. E se osservate bene, non ho esultato quando ho fatto gol contro la Lazio a San Siro, neanche ieri quando ho fatto il secondo gol l'ho esultato, neanche la capriola. È stata una capriola triste, perché c'era stato un motivo, perciò scusatemi e mi dispiace tanto perché è andato in questo modo. Ma ditevi voi, ma si può? Cioè, ma vi pare il caso? Ma era Hernanes questo che praticamente piange il telefono, eh? Ma si può? Ma Hernanes nelle regole del gioco gioca nell'Inter, è un professionista, segna un gol importantissimo, fa la sua esultanza, non una capriola triste, ma una capriola piena di felicità per la sua squadra. Non voglio dire banalizzare, dire per quelli che gli danno i soldi, ma per la sua squadra una vittoria importante, fa la capriola e nel gioco delle parti si becca i fischi dei suoi ex tifosi. Festa finita, non c'è bisogno di chiedere scusa. Io questa storia del non esultare la trovo una delle peggiori mancanze di rispetto nei confronti dei tifosi del club di appartenenza che si possa immaginare. Una cosa che mi dà un fastidio pazzesco. Filippo Prato, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno, buongiorno. Lei come la pensa su questo punto? Cioè, ma si chiede scusa dopo, di fronte a questa tragedia. Tutto passa di secondo piano. troppo divertente, ma come si fa, no? Vai lì, cioè è normale, eri un idolo a Roma, sei andato via perché sei un professionista, hai giocato nell'Inter, hai segnato un gol importante, esulti per i tuoi compagni, per i tuoi tifosi, ti becchi i fischi, è tutto finito, certo, no? Certo. Ora che ha pianto magari andrà contro, avrà tutti contro i tifosi dell'Inter. No, non credo, non credo così. Piuttosto ricordiamo tutti insieme che oggi è il 30° anniversario dello scudetto del Verona di Bagnoli. Poi c'è chi scrive come Marco, scudetto 85 è l'unico pulito. Vabbè, queste sono opinioni. Dica Filippo. No, io ho chiamato perché io lavoro per un'azienda, una multinazionale, e ho contatti anche in Spagna con i miei colleghi. E sono di Leon e quindi sono tutti di Real Madrid. Abbiamo avuto diversi scontri in questi anni e posso dirvi una cosa: loro, anche se non lo dicono, sono tutti convinti di farcela alla grande. Non ce n'è uno che pensa che non ce la possono mi fare. Mi sorprenderei del contrario, posso dire, per il madridismo, per la convinzione di, insomma, che si portano addosso, sono i detentori della Coppa. Mi basta vincere 1-0 volendo, c'è il Bernabeu, c'è tutto quanto, quindi mi sorprenderei del fatto che non facciano manifestazioni di ottimismo, no? Comunque, secondo me sono troppo convinti e secondo me va benissimo così. Sono il fatto di Morata, che poi giochi loro non lo ritengono un attaccante per il Real Madrid, nessuno di loro, questo è sicuro. E comunque pensano che il calcio, come lo chiamano loro, che è il nostro campionato, non sia all'altezza del loro, quando poi loro hanno solo due squadre. Sì. Ma sappiamo come sono gli spagnoli, lo sa anche lei, per esempio a Madrid puoi vincere, ma se non giochi bene ti fischiano, a Barcellona succede la stessa cosa. Secondo a me il campionato spagnolo, devo dire la verità, nel complesso non piace, perché tutte quelle partite 6-0, 8-0, il Barcellona, leggevo prima una statistica pazzesca che rende idea della forza del Barcellona, ma anche delle debolezze altrui, viene da 8 vittorie in fila, nelle ultime 7 il saldo è 25 gol segnati, 0 subiti, questo per dire che il Barcellona, con i tre davanti che ne ha segnati 112, fa paura, però anche per dire che il campionato spagnolo è poco probante. Per quanto riguarda il campionato italiano invece, c'è anche Cassano che ha parlato nei giorni scorsi, volevo farlo sentire a parte, non l'ho fatto in tempo. Anche Cassano la pensa un po' come Benitez. Ma la Juve vincerà per i prossimi 5-10 anni, il campionato italiano è diventato il quinto campionato in Europa, è talmente scarso che può giocare anche mio nonno, che la buonanima di mio nonno, che aveva 90 anni all'epoca, perché è scarso il campionato. Io mi ricordo a fine anni 90, inizi 2000, quando iniziavo a giocare io, c'erano le sette sorelle, come si diceva, con fiorfiori di calciatori, i più forti al mondo. Adesso ce ne saranno 3-4. Vabbè, quindi bentornato Cassano, se il campionato è così scarso e può giocare pure suo nonno, altre 3-4 stagioni, se ha voglia di tornare, le può fare pure lui. Andrei al Giro d'Italia, dove ieri ci siamo presi uno spavento non da poco. Ma adesso molto meglio, mi sento molto debole, però diciamo sono già quasi normale, riesco ad andare a alzarmi e stare un po' di tempo in piedi, quindi sto molto meglio di quando sono caduto ieri, di quegli attimi di cui non ricordo nulla purtroppo. Sì, quello è insito proprio nel ciclista, appena... Non dico appena ci si rialza, perché lì ero messo male, ma appena si ha un minimo di lucidità si pianifica il rientro, si fanno le prime ipotesi di ritorno in bici. Ma per il momento quello che posso pensare è il Giro di Svizzera, è la prima corsa che avevo già in programma di fare, quindi cercherò di rimettermi per tornare competitivo come lo ero in questa tappa. Questo era naturalmente Domenico Pozzovivo. Ciao Piero Augusto Stagi. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Che paura, che caduta che ha fatto. Sì, guarda, paurosa, veramente. Abbiamo rivisto e riassaporato sensazioni terribili, perché quando abbiamo visto che il corpo di Domenico rimaneva immobile, quando quel tifoso, che è stato anche forse fin troppo criticato, non sappiamo bene se questo tifoso che ha immediatamente Domenico, e come ha raccontato il compagno di squadra di Portavivo, Dupont, ha detto l'ha girato su un fianco, prima gli ha tirato fuori la lingua per permettergli una corretta respirazione, quindi ha fatto delle operazioni da pronto soccorso eccezionali. E quindi questo signor X dobbiamo innanzitutto ringraziarlo, certo, credo che non certo. so se mai riusciremo a identificarlo, ma probabilmente Domenico deve veramente dirgli grazie. Sì, poi sì. devo dire che è stato fenomenale, non è così facile come avere dei medici a bordo campo in è una chiaro. Corsa ciclistica è ben chiaro. difficile, no, però in poi situazioni come quelle, guarda Pierre, 45 fa secondi, in 45 secondi sono arrivati il dottor Branca e la dottoressa Elena Della Valle, il professor Giovanni Tredici, che coordina lo staff medico del Giro d'Italia da 31 anni ha svolto un lavoro perfetto, in 7 minuti è arrivato l'ambulanza, hanno chiamato l'elicottero, è stato organizzato il trasporto all'ospedale di Genova, cioè è stata fatta un'operazione eccezionale. Assolutamente. E tutto è bene ciò che finisce bene, l'abbiamo sentito. Domenica è già pronto, non dico che posso già risalire in bicicletta, ma con calma, prendiamola con calma. Senti Pier Augusto, in meno di un minuto, oggi tappa Nervosetta. Oggi molto nervosetta, c'è grande c'è un po' di malumore in gruppo, soprattutto i tinkf di Alberto Contador hanno un po' indispettito alcune squadre, soprattutto ieri, perché speravano che la fuga andasse via, cioè che Contador lasciasse un po' di spazio e un po' di gloria anche agli altri. Invece ieri i tinkf hanno controllato tutto e tutti, non hanno fatto via andare nulla, e la cosa non è piaciuta assolutamente. E oggi stanno cercando un colpo di mano, ci sono due uomini all'attacco intanto, Montaguti e Pellizzotti. Ieri Pellizzotti ha avuto una giornata no, per i crampi ha beccato più di 10 minuti, quindi oggi è in avanti scoperta, ma a una trentina di secondi c'è un gruppetto di una quindicina di corridori con dentro Kreuziger e con altri attaccanti anche della Stana, e stanno cercando di così mettere, stanno facendo una lotta di nervi. E quindi vediamo un po', soprattutto la vigilia della prima, il primo vero arrivo in salita, che è domani alla Bettone. Certo, grazie Pier, ci sentiamo domani. Grazie a voi. Ciao. Dopo in coda al GR delle 7 del mattino naturalmente, e poi nel GR della sera, tutto quanto sul Giro d'Italia con Pier Augusto Stagi. Giorgio Luca, il nostro autore, Daniele Bonamici in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti. Pochi secondi ormai, si aspetta solo il fischio finale, eccolo!